sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Via libera al decreto anticrisi, passa lo scudo fiscale, il PD abbandona l'aula, Napolitano valuterò il testo. Afghanistan, nuovo attacco agli italiani, un militare è stato ferito a Shindad, non è in gravi condizioni. Berlusconi a New York con Obama, confronto sul ruolo dell'Italia nelle missioni, i paesi europei potrebbero boicottare Ahmadinejad. Napoli, voragini nei quartieri spagnoli, 50 famiglie evacuate. E buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Lo avete sentito nei nostri titoli, approvato dunque lo scudo fiscale tra le polemiche in Senato. E questa è la notizia in primo piano. Intervenuto poco fa sul tema anche il capo dello Stato. E allora noi ci colleghiamo in diretta con Roma con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Disco verde dunque di Palazzo Madama al decreto correttivo che modifica l'ultima tornata di misure anticrisi e che contiene tra l'altro una versione più allargata dello scudo fiscale. Il provvedimento passa ora alla Camera, il decreto va convertito, lo ricordiamo, entro il 3 ottobre. A favore il centrodestra, decisamente contraria a tutta l'opposizione, il Partito Democratico ha abbandonato per protesta i lavori. Di vera porcata parla la senatrice Finocchiaro, ha votato contro l'UDC. Mafiosi e terroristi ringraziano, hanno scritto su alcuni cartelli i senatori dell'Italia dei Valori, sotto accusa in particolare l'estensione dello scudo fiscale al falso in bilancio e più in generale l'ampliamento delle garanzie anche per un lungo elenco di reati tributari. Soddisfatto il governo che attraverso il sottosegretario al tesoro Giorgetti ha commentato, grazie al lavoro del Parlamento il testo in esame è migliorato. Il capogruppo del PDL Gasparri dice il PD è affezionato alle tasse a tal punto che avrebbe preferito metterne di nuove piuttosto che far rimpatriare capitali dall'estero. Sulla questione è intervenuto poco fa anche il Presidente della Repubblica Napolitano, che si è limitato a dire: quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. L'altra notizia in primo piano arriva dall'Afghanistan, dove c'è stato questa mattina un nuovo agguato ad una pattuglia italiana a Shindad, nell'area presidiata dai nostri militari. Frattura del gomito per un paracadutista italiano che non è in gravi condizioni, si trova al momento ricoverato nell'ospedale di Herat. Giovedì scorso la tragedia di Kabul che è costata la vita a 6 palà. La nostra inviata Cristina Balottelli è in viaggio, è in aereo proprio diretta ad Herat. Dunque nel corso delle prossime edizioni saremo in grado di farci raccontare questo episodio, questo nuovo attacco agli italiani. Lo ripetiamo, senza gravi conseguenze. Un paracadutista è rimasto ferito, frattura del gomito. A New York oggi entra nel vivo il vertice sul clima, dopo l'allarme lanciato ieri dal presidente Obama e dal segretario generale Ban Ki-moon. Riflettori sul discorso che terrà il presidente iraniano Ahmadinejad, ma in giornata parleranno tutti i leader presenti, premier italiano compreso. E allora noi ci colleghiamo in diretta con New York, con Gerardo Pelosi. Buona giornata, Gerardo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Gerardo, oggi è la giornata più importante a partire da questo discorso di Ahmadinejad che è molto atteso, però parleranno tutti i leader. Sì, oggi è la giornata dell'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel corso del quale tradizionalmente parlano soltanto i capi di Stato. Soltanto due primi ministri parleranno oggi, cioè il primo ministro svedese e il primo ministro italiano, per il fatto che il primo ministro svedese ha la presidenza di turno dell'Unione Europea e Berlusconi ha fino alla fine di dicembre la presidenza del G8. I temi ovviamente sono quelli della governance globale, del clima, della crisi economica, che è stata al centro ieri del summit, concluso poi con una cena molto ristretta, 20-25, in cui ha partecipato appunto anche Berlusconi appena arrivato da Roma. Berlusconi dovrebbe, prima del suo intervento, che si terrà alle 12.45, ora locale, circa le 7:15 in Italia, partecipare a un incontro con il presidente americano Obama, tra i capi di Stato e di Governo dei paesi maggiori contributori delle forze multinazionali di peacekeeping nel mondo. E tra le prime 10 c'è appunto l'Italia, unico paese europeo ad avere un così alto numero di forze diciamo, multinazionali sparse in moltissime aree di circa 20. Quindi non c'è soltanto l'Afghanistan, ma l'Afghanistan appunto anche dopo l'attacco italiano all'Italia e dopo l'attacco mortale ai 6 parà italiani e quello ultimo di poche ore fa, sarà al centro dell'incontro. Il presidente Obama l'altro ieri al David Letterman Show avrebbe tra una battuta e l'altra lasciato capire che anche in America c'è la necessità di dare risposte a un'opinione pubblica sempre più preoccupata sulla exit strategy dall'Afghanistan. Nello stesso tempo il capo della missione USA, ISAF, il generale McChrystal, ha messo in chiaro, in bianco e nero, su un documento che serviranno più soldati in Afghanistan, altrimenti la missione potrebbe fallire. McChrystal ha anche detto una cosa molto importante sul ruolo dei militari in Afghanistan, cioè che bisogna uscire fuori dai blindati, uscire fuori dalle postazioni più difese e difendere la popolazione, ma senza dare l'idea di una forza di occupazione. Questo in breve tempo creerà anche molte più vittime, ma è l'unica strada per risolvere il problema della stabilità. Grazie a Gerardo Pelosi. Dunque sono tanti, lo avete sentito, i temi sul tappeto. Si parlerà diffusamente di missioni, di pace e quindi dunque anche di Afghanistan, ma si tornerà anche a parlare del clima. E oggi il nostro sondaggio era dedicato proprio al clima. Allora sentiamo come avete risposto alla domanda. Dividere il mondo tra catastrofisti e negazionisti fino a ieri sembrava passato di moda. Poi ci si è messo il presidente americano Obama a evocare una catastrofe irreversibile per le future generazioni se non si interviene. Su che cosa? Sul clima e le emissioni di gas serra. Il tempo sta stringendo, ha detto il presidente americano. E così ci siamo interrogati nel sondaggio di oggi: ma davvero pensate che la Terra corra un pericolo serio? L'anima ecologista in qualche modo ha prevalso, con il 78% di sì, anche se il professor Franco Battaglia è critico. Obama in sbaglia, ma al di là di tutto ciò c'è un fatto, è da 20 anni che questi signori continuano a dirci bisogna fare qualcosa e subito, però cortesemente vorremmo sapere cosa bisogna fare esattamente. Bianco o nero torna domattina alle 8:30 e per votare basta andare sul sito radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ieri il presidente Obama ha tenuto anche l'attesissimo vertice trilaterale sul Medio Oriente. Stampa araba divisa sull'esito di questi colloqui. In diretta Adib Fateh Ali. Adib. Buongiorno. Non si capisce bene cosa si aspettavano esattamente gli arabi dal vertice a 3 di New York, ma per la grande stampa araba quello che viene definita dagli occidentali una storica conquista di Obama è stata invece una grande delusione, perché non avrebbe portato a nessun risultato tangibile. Per molti il presidente americano non ha fatto altro che ripetere vecchie richieste già sentite. Solo la stampa saudita moderata vede un nuovo approccio degli Stati Uniti per una soluzione delle questioni di fondo tra arabi e israeliani e non solo tra palestinesi e israeliani. Volevamo chiederti un'altra cosa. C'è sulla stampa araba anche la delusione per la sconfitta del candidato egiziano al vertice UNESCO, che per la prima volta nella sua storia, lo ricordiamo, sarà guidato da una donna. Che cosa scrivono i giornali? Se è possibile fa ancora più male la mancata scalata del ministro della cultura egiziano alla guida dell'UNESCO. Lobby ebraica, voltafaccia all'ultimo momento degli europei e il tradimento di asiatici e latinoamericani sarebbero i tre ingredienti che hanno determinato la cocente sconfitta del mondo arabo e musulmano. Questi sono i titoli che vanno a dire, anche se poi non manca qualcuno che fa autocritica. Al Qozel Arabi per esempio dice in fondo Hosni, che è il candidato arabo, non era all'altezza. In realtà la vincente, la Irina Bokova, conosce molto meglio i problemi dell'UNESCO, che ha tanto bisogno di una guida che ha esperienza, insomma. Grazie Adib, si tratta comunque di una svolta. Due notizie appena battute dalle agenzie che riguardano il Vaticano. La prima è Ettore Gotti Tedeschi, il nuovo presidente dello IOR. E poi c'è l'altra notizia che riguarda i Lefevriani. Il vescovo di Stoccolma aveva avvertito la Santa Sede delle dichiarazioni che negavano l'olocausto del vescovo lefevriano Richard Williamson. Torniamo alla crisi economica. Domani c'è il G20 di Pittsburgh. La Commissione europea ha intanto già varato l'attesa riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria. Bruxelles anticipa Pittsburgh. La Commissione europea non ha atteso il vertice economico G20 che si terrà da domani nella città americana e nella riunione di oggi ha varato l'attesa riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria. Un sistema a due gambe. Una è il Board europeo sui rischi sistemici, composto tra gli altri dal presidente della BCE e dai governatori delle 27 banche centrali, che dovrà monitorare l'esistenza di eventuali rischi sistemici e nel caso lanciare rapidamente l'allarme. Il secondo pilastro è il sistema europeo di supervisione finanziaria, che si occuperà della supervisione appunto sui singoli istituti bancari e assicurativi e sulle singole borse. Ora la riforma passerà all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo. L'obiettivo è garantire che le stesse regole siano applicate ovunque in Europa e dare una risposta più efficace nell'eventualità di prossime crisi. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. È diventata una questione politica la partecipazione di Marco Travaglio alla prima puntata di Anno Zero, che dovrebbe andare in onda domani. Sentiamo. Con o senza contratto, Marco Travaglio domani alla prima puntata di Anno Zero ci sarà. Lo ha ribadito a chiare lettere Michele Santoro, che ieri, presentando la nuova stagione del suo programma, è stato anche protagonista di un duro botta e risposta polemico col direttore di Rai 2, Lio Fredi. Il conduttore si è lamentato per il ritardo con cui la Rai avrebbe messo a disposizione le troupe necessarie per realizzare la trasmissione, ma soprattutto proprio per il mancato rinnovo del contratto di Travaglio. Per Santoro, dietro questi fatti ci sarebbero motivazioni politiche. Viali Mazzini parla invece di ragioni tecniche. Per il contratto di Travaglio, in particolare, il timore è quello di incorrere in sanzioni da parte dell'autorità per le comunicazioni. Di questo avrebbero dovuto parlare oggi pomeriggio il direttore generale della RAI Masi e il presidente dell'AGCOM Calabrò. L'incontro chiesto da Masi sarebbe però saltato. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Fine settimana all'insegna dell'arte e della cultura c'è la 15ª edizione delle giornate europee del patrimonio. Promosse dal 1991 dal Consiglio d'Europa con il sostegno della Commissione europea, le giornate europee del patrimonio vedono coinvolti 49 stati membri della Convenzione culturale firmata nel 1954. Questa edizione 2009, che per l'Italia è la 15ª, partecipiamo infatti dal 95, ha come slogan Italia tesoro d'Europa, per sottolineare il ruolo portante della cultura italiana nel contesto del vecchio continente. Il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Mario Resca. Credo che sia proprio uno slogan centratissimo, perché l'Italia ha la fortuna di avere il maggiore patrimonio per qualità e quantità, quindi il tesoro culturale di arte, di archeologia, il 51%, come l'UNESCO ci dice, sono proprio in Italia. Oltre 1000 i luoghi aperti in tutta la penisola e gli eventi previsti per sabato 26 e domenica 27 settembre. Mostre, aperture straordinarie e visite guidate. Tra le numerose proposte del Ministero dei Beni Culturali, segnaliamo che dopo anni di chiusura a causa di un lungo restauro riaprirà al pubblico Villa Beatrice ad Argelato, in provincia di Bologna. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione e da Annarita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del via libera al decreto anticrisi, è passato anche lo scudo fiscale. Tra le polemiche, il PD ha abbandonato l'aula e il capo dello Stato Napolitano ha detto che valuterà il testo. Poi siamo andati a New York, dove oggi parlano tutti i leader all'Assemblea dell'ONU, c'è anche Berlusconi che con Obama parlerà del ruolo dell'Italia nelle missioni, molto atteso il discorso di Ahmadinejad. Ma soprattutto abbiamo parlato di Afghanistan, del nuovo attacco agli italiani. Un militare è stato ferito in maniera non grave. Vi avevamo detto già in precedenza che la nostra inviata Cristina Balottelli si trovava in viaggio verso Herat. Cristina è in collegamento con noi. Buona giornata Cristina, che cosa sai di questo ennesimo attacco, di questo nuovo incidente? Sì, buongiorno, sono da poco atterrata ad Herat, nella base militare italiana ad Herat. È successo nell'area, questa sparatoria è accaduta nell'area di Shindad, che è una delle più turbolente dell'ovest dell'Afghanistan. Era in corso una pattuglia dei nostri militari e nel corso di questa pattuglia c'è stato, come accade, è uno dei tanti rischi, uno scontro a fuoco con un gruppo di insorti. Uno dei nostri parà è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, a un braccio. L'attacco è avvenuto questa mattina, appunto mentre i nostri militari erano impegnati in una operazione di controllo del territorio nell'area di Shindad, e nello scontro a fuoco c'è stato il ferimento appunto di uno solo dei nostri militari. Ed è tutto per il momento da Herat. Grazie a Cristina Balottelli, che, lo ripetiamo, è arrivata proprio da pochi minuti ed Herat, dunque anche nel corso delle prossime edizioni ci informerà sulla situazione in Afghanistan. Noi passiamo alla cronaca italiana, che arriva da Napoli, che continua a sprofondare, potremmo dire. Numerose voragini si sono aperte nei quartieri spagnoli, sono stati sgombrati numerosi edifici. Noi ci colleghiamo in diretta con Napoli, con Enzo Danna. Buona giornata, Enzo. Sì, buongiorno a voi, sono in via San Carlo alle Mortelle, dove questa notte si sono verificate 3 voragini. Al momento sono una cinquantina le famiglie sgomberate dalle rispettive abitazioni. Sul posto sono presenti i tecnici comunali della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, oltre agli operai dell'ARIN, che hanno sospeso l'erogazione dell'acqua in tutta l'area. Una prima voragine si è verificata poco prima delle 4 di stanotte all'interno della storica chiesa di San Carlo alle Mortelle, dove il pavimento è sprofondato nella cavità sotterranea. Poi c'è stata un'altra voragine, un'altra spaccatura in strada, quindi è sprofondato uno dei bassi vicini, dove una donna è riuscita a mettersi in salvo salendo al piano rialzato dell'abitazione. Insomma, solo per una casualità non vi sono stati feriti. Ancora non si conoscono le cause di questa voragine, ma è possibile che le forti piogge dei giorni scorsi abbiano contribuito al crollo in una cavità del sottosuolo. Soltanto dopo i controlli dei tecnici e degli esperti si potrà avere un'idea più chiara dello stato degli edifici e capire quante persone potranno fare ritorno a casa. Noi abbiamo ascoltato alcuni degli sfollati, ecco cosa ci hanno detto. Non sappiamo niente, dovete provvedere voi, non lo so. Siamo per strada. Da stamattina alle 5:30, siamo tutti quanti per strada. Questo è il problema, chissà quando se ne parlerà qua per entrare. Cosa vi hanno detto i tecnici vigili del fuoco? Che per stanotte non si può entrare in casa, a meno per tutto oggi, poi non sappiamo niente. Cosa farete quindi? Non lo so, io sto troppo innervosita, che lunedì mi dovevo sposare qua. Quindi... Nella chiesa dove c'è stato il crollo? Sì, proprio lì, quindi mo non so proprio cosa dire. Avete lasciato tutto a casa, ovviamente non avete nulla con voi? No, no, proprio niente. Ci hanno detto che stanno facendo le verifiche delle cose, che ci vorrà del tempo e che poi durante la giornata ci faranno sapere. Enzo, dunque questa è la situazione, le voci che sono state raccolte nei quartieri spagnoli, dove nella notte si sono aperte numerose voragini, lo avete sentito, numerosi disagi per i cittadini. Non c'è ancora un bilancio definitivo, quante persone dovranno lasciare le proprie abitazioni, sarebbero 6 gli edifici sfollati. Ancora cronaca, ma ci spostiamo, sniffavano cocaina a 13 anni per pagare la droga, vendevano anche gioielli di famiglia. Emerge da un'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Ascoli, che ha portato a segnalare ai servizi sociali 17 ragazzini sotto i 14 anni che usavano diversi tipi di droga. Cristina Carpinelli si è fatta raccontare tutto dal capo della squadra mobile di Ascoli, Pier Francesco Muriana. Beh, il ragazzo da cui è partita l'inchiesta è stato agganciato in chat. Lui non conosceva prima lo spacciatore, peraltro anche lui minorenne. Essendo ragazzini, non avendo altro modo per procurarsi denaro, hanno fatto ricorso, insomma, alla cosa più semplice che hanno potuto escogitare, cioè rubare oro in famiglia. Peraltro in alcuni casi sono stati rubati degli oggetti che, oltre che essere preziosi da un punto di vista economico, lo erano anche da un punto di vista affettivo. Per voi com'è stato lavorare su questo caso? Perché immagino che sia stato anche molto delicato, no, l'intervento, visto che si trattava di quasi bambini. È stata un'opera finalizzata soprattutto alla prevenzione e al recupero. Come potete notare, nelle cifre, diciamo, finali del bilancio dell'operazione non ci sono arresti, ci sono solo denunce. La droga da dove arrivava? Chi è che procurava la droga? Guardi, abbiamo accettato una connessione con una indagine precedente, in quando abbiamo smantellato una banda internazionale composta da cittadini dominicani ed italiani che importavano grossi quantitativi di cocaina da Santo Domingo, e abbiamo scoperto che alcuni personaggi collegati a questo gruppo di minorenni si rifornivano da questi grossisti. Lo sport adesso, stasera torna in campo la Serie A per un turno infrasettimanale, alle 20.45 si gioca la quinta giornata di campionato. A San Siro si sogna la serata del sorpasso. Il calendario che non piace a Mourinho, oggi squalificato, potrebbe regalare all'Inter una notte da prima della classe, perché la Juve giocherà solo domani col Genoa e la sempre più sorprendente Sampdoria rischia l'imbattibilità a Firenze, come ricorda il capitano blucerchiato Palombo. Avrà fatto magari una partenza così e così, però comunque è una signora squadra. Noi dobbiamo andare là e giocarci la partita. Ma per mettere la freccia e guadagnarsi il primato, l'Inter deve risolvere il rompicapo Napoli, squadra imprevedibile se ce n'è una. Fermo Thiago Motta, il faro del centrocampo nerazzurro torna ad essere Cambiasso. Sicuramente guardando la classifica non si corrisponde la sua squadra con la classifica che ha e che vorrà rifarsi assolutamente facendo una grande gara contro l'Inter. Leonardo ironizza sulle telefonate dall'alto che gli suggeriscono la formazione. Nel suo Milan, che va ad Udine, se non arriva la chiamata giusta, Ronaldinho rischia ancora la panchina. Storie tese di allenatori contro l'Atalanta dell'esordiente Conte, Azzorri rischia il posto sulla panchina del Catania. Anche Zenga è a rischio. In Palermo-Roma traballano anche Papadopoulo e Ruotolo, in Bologna-Livorno. In Lazio-Parma si sente già aria di alta classifica. Siena-Chievo regala punti salvezza. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Da 13 anni ad Imperia si festeggia il doppiaggio. Si chiama Voci nell'Ombra ed è il Festival Nazionale del Doppiaggio. In corso in questi giorni premierà le migliori voci dell'anno. Il premio alla carriera andrà a Michele Calamera. Sentiamolo al microfono di Marta Cagnola. Il doppiaggio è stato fatto conoscere solamente negli ultimi tempi. Finalmente sono contento che il doppiaggio sia riconosciuto sia dal pubblico, che è sempre stato curioso, sia dalla critica, e quindi è un fenomeno culturale. E che doppiatore è Michele Calamera? Io mi sono sempre definito un doppiatore eclettico, perché mi piace passare, come quando facevo l'attore di teatro, dal drammatico al comico, ai cartoni animati. Negli ultimi anni sono stato la voce di Baloo per il mio nipotino, che ora ha 5 anni e che quindi si delizia con la voce del nonno e mi riconosce prima ancora che mi riconosca io su tanti cartoni animati. Sono stato la voce di Steve Martin per molti film, a differenza di Clint Eastwood, che dice una parola ogni 5 minuti, che parla lentissimamente con la voce bassa. Steve Martin dice 10.000 parole al secondo, per cui già la mattina alle 9, quando io lo doppio, devo essere sciolto, elastico, prontissimo, con la voce acuta. Mi diverto moltissimo a fare questo. Fate i bravi, posate l'artiglieria. Che cosa? Sì, se no dovrete fare i conti con noi tre, con Smith, Wesson e me. Mi resi subito conto che era uno sbaglio di proporzioni titaniche. Quel tipo avrebbe coordinato il nostro matrimonio. E come? Con i sottotitoli? Scusi, ha detto? Sì, è vero, ci piacerebbe il matrimonio in casa il 6 di gennaio. Io adoro i matriaci in casa. Ma quali sono le doti fondamentali per un doppiatore? Il doppiaggio è la parte vocale dell'attore e per essere un bravo doppiatore bisogna saper recitare. È tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.